English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera, Giulia, facciamo silenzio. No, beh, non silenzio, insomma, in senso stretto, perché altrimenti sarebbe difficile coprire un quarto d'ora di trasmissione in inglese in silenzio. Ma il silenzio è d'oro, si sa. C'è chi, per trovare il silenzio, se n'è andato in una terra lontana. È stato da solo per un anno intero. Lo ha fatto, ad esempio, il californiano Robert Cull, che si è rifugiato in Patagonia. Splendida Patagonia, un po' solitaria. Di Robert Cull, ma non solo, parla questo articolo del Financial Times che abbiamo tratto dal CD del nostro English 24 in edicola. Literature is full of examples of the beneficial influence of getting away from it all. 28 years on a desert island did Robinson Crusoe the world of good. He became more resourceful, overcame his initial despair to provide himself with all the necessary means for survival, found God, and improved himself morally. Despite this, spending a lot of time alone is generally considered a bad thing in the West. With its emphasis on relationships and community, our society is traditionally suspicious of the one who sets him or herself apart. Is the transformative power of solitude available only to visionaries and castaways? Or should we all make an effort to seek out silence and solitude at some point in our lives in order to live life to the full? Noi siamo abituati a pensare che la solitudine non sia sempre un bene, anzi, eppure qua si parla di influenza benefica addirittura. E naturalmente si fa riferimento alla literature, alla letteratura, che dice l'articolo: it's full of example of the beneficial influence of getting away from it all. To get away, naturalmente uno dei nostri amati phrasal verbs, to get è uno dei più versatili, quindi to get away, naturalmente andar via, ma qualcosa proprio del tipo lasciarsi dietro le spalle tutto quanto, getting away from it all. Beh, abbiamo parlato di letteratura, c'è un personaggio molto famoso, anzi forse di solitario per antonomasia. E colui che ha passato 28 years on a desert island, naturalmente parliamo di Robinson Crusoe. E lui se la cavava piuttosto bene, insomma è un esempio particolarmente felice di come cavarsela, altro che Robert Cull, 28 anni. E qui c'è una espressione che a volte usiamo anche noi in italiano, però in inglese è più comune, che è a world of good, quindi un mondo di bene, ma non è tanto un augurio, ti voglio un mondo di bene, ma ha fatto a Robinson Crusoe il fatto di essere solo per 28 anni un mondo di bene, perché he became more resourceful. Resourceful come beautiful, ci attacchiamo full e diventa quindi uno pieno di risorse, perciò è diventato un uomo che sapeva, ha imparato a fare qualsiasi cosa. Anche perché doveva procacciarsi il necessario. Quindi to provide himself, provide naturalmente vuol dire darsi, dare, provide himself vuol dire appunto procacciare per se stesso. So the means of survival, means i mezzi, naturalmente anche in questo senso parola molto versatile, in questo senso i mezzi di sopravvivenza, survival. Lo anticipavo, noi non è che siamo sempre pronti a pensare alla solitudine come a qualcosa di positivo. Sì, forse insomma in Occidente sì, col rischio poi che le relazioni siano superficiali, però diamo molta enfasi alle relationships, alla vita sociale, quindi siamo suspicious of, sospettosi di, come in italiano, delle persone che set himself o herself apart, che to set apart vuol dire mettersi da parte, e himself or herself cioè mettere se stessi da parte, quindi da parte naturalmente rispetto al mondo normale tra virgolette. E quindi pensiamo che sia una cosa buona solo per i castaways, e qua mi ricorda un film molto famoso con Tom Hanks, certo, Castaway. Castaway, che era poi la storia appunto di Robinson Crusoe, quindi to cast away. Cast, sappiamo anche da casting, vuol dire scegliere sostanzialmente. To cast away vuol dire come chiamarsi fuori o essere mandati fuori, quindi appunto essere come Robinson Crusoe. L'ha fatto questo signor Robert Cull, un anno solo, ma un anno in Patagonia, che è un luogo bellissimo, dicevamo, ma non del tutto ospitale, soprattutto se si è da soli. Allora, facciamo la conoscenza proprio di questo Bob Cull, di questo signore, che ha scritto poi, tornato da questa esperienza, Solitude Seeking Wisdom in Extremes. I feel a call to do it. There's times when just there's a deep inner call that wants me to take off and hook up with the non-human world, and if I don't follow that call, I start to kind of wither up and die inwardly. One of the reasons I go is to become more deeply connected. So one of the reasons I go is to sink down below the social chatter and find a deeper connection with the world and with other people as well. So there's a sense often of being woven into the universe. Well, one of the challenges often when we read about or hear about somebody going off to live in the wilderness, it's man against nature. My whole reason for going was to shift out of that, to be with man with nature, to feel a part of it and supported by it and woven into. So that's the huge challenge, because the ego doesn't like to give up. The ego likes to, you know, I can tough it out. And so to give that up and actually become part of is, it's wonderful. It's wonderful, è bellissimo, se lo dice lui che l'ha fatto è bellissimo, però diciamo che lui è come se avesse sentito un bisogno improvviso, quasi una chiamata. Una chiamata proprio, I'd feel a call to do it, quindi qui naturalmente l'uso di would, che è diverso da quello che ne facciamo noi, cioè noi pensiamo che would sia sempre condizionale, invece in questo caso è addirittura come noi in italiano lo tradurremmo con un congiuntivo, quindi se io sentissi, è come se tu sentissi la chiamata, quindi a lui è successo questo. I'd feel a call to do it. Ha sentito questa chiamata. Deep inner call, cioè proprio dal profondo. Questa deep inner call that wants me to take off. Ecco, take off, altro phrasal verb che vuol dire per un aereo decollare, ma take off per una persona che purtroppo non abbiamo ancora imparato a prendere il volo vuol dire semplicemente andarsene, cioè andarsene in un modo molto drastico, come appunto può fare un aereo. Senti Giulia, io non so che sensazione abbia avuto tu, ma mi sembra che questo Bob Cull sia l'uomo dei phrasal verb, perché ce ne sono tantissimi. Proviamo a fare un po' una lista di tutti i phrasal verbs che utilizza. Allora, intanto, to hook up with. To hook up with, naturalmente hook è come anche, vabbè, hooker vuol dire anche prostituta, ma questo è un significato secondario. Però to hook è proprio il gancio, quindi to hook up with vuol dire agganciarsi, sentire un legame profondissimo e appunto quasi imprescindibile, perché una volta che si è agganciati come con un ometto dell'armadio, poi è difficile staccarsi. Un altro film, Hook, Capitano Uncino. To wither up and die. Wither up è proprio... come desquamarsi, sciogliersi, quindi se non avesse perdere essenza, ecco, qualcosa di quasi mistico, quindi se lui non avesse sentito questa, se non avesse ascoltato questa call to do it, si sarebbe così dissolto nell'universo. To sink down below the social chatter. Questo bellissimo social chatter, prima dicevamo dell'importanza che si dà in Occidente alle relazioni sociali, ecco, lui le considera un chiacchiericcio sociale, quindi a lui voleva andare sotto, to sink down, quasi mettendo, come se l'immagine è quella di mettere una lastra di ghiaccio tra tutto questo chiacchiericcio e se stesso che ci naviga sotto. E poi ancora, woven into the universe. Woven naturalmente viene da, è un termine tessile letteralmente, vuol dire essere intrecciato con, e qui lui appunto vuole sentirsi un filo dell'universo, nella grande trama tessile dell'universo, quindi vuole esserne parte in questo modo. Sembra un elenco, ma poi dice anche to shift out of that. Ecco, perché lui dice che l'immagine che si ha di queste persone che come lui vanno appunto in Patagonia è di vedere man against nature, cioè un contrasto, un conflitto tra l'uomo e la natura. Lui dice I wanted to shift out of that. To shift naturalmente vuol dire spostarsi, però to shift out vuol dire proprio uscire, quindi lui voleva avere un altro modo di vedere la cosa. Questo antagonismo proprio non era la sua idea dell'esperienza in Patagonia. Io devo dirti che di fronte a tutti questi phrasal verbs mi verrebbe voglia di rinunciarci, ma ego doesn't like to give up. To give up, un altro phrasal verb usatissimo, vuol dire arrendersi. L'ego, naturalmente la personalità, l'ego doesn't like to give up, cioè l'ego non vuole arrendersi, non vuole perdere il controllo, potremmo dire in italiano, e l'ego dice sempre to tough it out. Questo secondo me se l'è praticamente inventato, però possiamo intuire che vuol dire, to tough naturalmente vuol dire duro, quindi l'ego vuol dire, l'ego in questo senso vorrebbe fare la parte del duro, dire io risolvo tutto, e invece è meglio to give up, arrendersi, lasciarsi andare. Beh, ha avuto un anno per inventarsi delle nuove parole, un anno nel quale ha scoperto un luogo che lui descrive in termini entusiastici. Sentiamo com'è secondo Bob Cull la Patagonia. It's amazing. It's one of the most beautiful places I've ever been. So it's radical, it's very far south. It's like halfway between Vancouver and the Queen Charlotte Islands. As far as latitude goes, so the ocean froze sometimes in the winter. Hugely windy. It's a savagely windy place. 3 or 4 meters of rain every year. The mountains just soar right up out of the sea. So it's got all that going on, and there's nobody there. For a year I didn't see anybody. I saw people once that the government came to look for me to make sure I would survive. So I was fishing, but everything else I took with me, mostly rice and beans. Abbiamo sentito della ricerca dei mezzi di sussistenza di Robinson Crusoe, invece come faceva Bob Cull? Sostanzialmente pescava, no? Lui dice soprattutto I was fishing, perché l'unica cosa che si era portato, un po' come il Into the Wild del film di Sean Penn, era rice and beans, cioè aveva del gran riso e dei gran fagioli, e tutto diciamo le proteine poi venivano dal pesce, che però si procacciava da solo. Qualcuno è anche andato a vedere se stava bene, perché anche qua mi viene in mente un altro film di quel signore che stava tra gli orsi ma non ha fatto una bella fine. Qualcuno è andato a controllare se non aveva fatto la fine di Grizzly Man. Sì, qui è divertente l'espressione, perché lui dice government came to look with me. Government, naturalmente la traduzione letterale è il governo, anche se poi noi intendiamo come governo il potere esecutivo, in questo caso sarebbe più inteso come lo Stato, però è un modo di dire molto americano, che vuol dire semplicemente l'autorità, cioè non è certo che il primo ministro, lui non voleva certo dire che il primo ministro è andato a vedere come stava, o il presidente in persona, che poi è l'equivalente del primo ministro, perché il presidente americano ha anche il potere esecutivo, no, quindi qualcuno, qualche ufficiale came to look for me, quindi to look for, sappiamo, vuol dire cercare, altro phrasal verb. Allora, però parliamo un po' di questa Patagonia. Lui dice it's amazing, quindi è straordinaria, bellissima, formidabile. Qualche caratteristica ce l'ha fornita in questo audio? Sì, dice che it's one of the most beautiful places I've ever seen, quindi sappiamo beautiful, non possiamo mettergli l'ST alla fine, dobbiamo dire most beautiful, quindi il più bello in assoluto. E è anche molto molto freddo, the ocean freezes, quindi l'oceano è talmente freddo che persino l'oceano d'inverno si congela, e poi it's hugely windy, enormemente ventoso, anzi savagely windy, ventoso in un modo selvaggio. Soar right out of the sea. Beh, poi naturalmente ci sono le montagne, quella zona deve essere veramente amazing, insomma la parola giusta è quella, quindi ci sono queste montagne, to soar out, soar vuol dire uscire, crescere, quindi sembra che le montagne crescano proprio, escano proprio right out of the sea, proprio fuori dalla linea del mare, naturalmente è perché sono dietro al mare, però l'impressione probabilmente è questa, come se fossero degli iceberg ma di pietra. Insomma, ci sono cose tremende, eppure bellissima, it's got all of that, perciò lui è rimasto semplicemente forse anche un po' senza parole, qui non sembra che se ne sia inventata, ha usato un sacco di avverbi, un sacco di superlativi, però deve essere la Patagonia effettivamente un posto splendido. Per quello che ho potuto vedere io nella mia brevissima esperienza in Patagonia, sì, ma non sono stata un anno da sola. Per sapere qualcosa in più di questa esperienza di Bob Cull, ma non lo solo, per leggere qualcosa di interessante sulla solitudine di chi sceglie di stare da solo, vi rimando al nostro English 24 in edicola. Il nostro tempo radiofonico si conclude qua. Ringrazio Peter Bescapè in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.